pronti per l'imbarco ogni sera. La tua nave ammiraglio vola senza vela. Vengano signori, salviamo ora, per un viaggio lungo una vita intera. Uomini che fanno la giurma, si stanno rimboccando le maniche. Uomini che bevono birra, ci porteranno l'oro sull'altra sponda. Pronti per il viaggio, si vola, c'è un posto per tutti in questa carriola. Urlatori strafiti dell'alba chiara, ai serpenti assonagli dalla pelle dura. Profeti e saltimbanchi di cera, giudici e facce da galera, giraffe e cantanti di strada, pagliacci e presidenti di un altro pianeta. Nave celeste in un mare di stelle, nave in un porto tra scogli e conchiglie, nave di cuoio e di schegge lunari. Seguirò tutti i tuoi passi, tutti i tuoi destini. Portami lontano da questi falsi dei. Portami oltre il cielo, oltre dove tu vuoi. Oltre le frontiere, oltre le apparenze. Lì dove il pane è grano e il cielo brucia tutte le assenze. Pronti per l'imbarco ogni sera. Questa nave ammirate vola senza vela. Non vi fate ingannare dalle altre fregate, la loro rotta è un elastico, una diga di acciughe. Abbiamo un obelisco come albero maestro, un pavimento di santi e vi diamo anche il resto. Il nostro capitano ci saprà guidare tra i fondi inconfondibili di uno splendido mare. Decimo Innocenzo nella stiva, rumina nomi e guida come un matto. Donna Olimpia, ingannata dai Panfili, si trucca col Mercurio e scomunica Pasquini. Salomone incontra la regina di Saba, Daniele nella fossa dei leoni prega, Venere a colloquio da Giunone invoca, è vestita di solo sole, è vestita come una foca. Nave celeste in un mare di stelle, nave in un porto tra scogli e conchiglie, nave di cuoio e di schegge lunari. Seguirò tutti i tuoi passi, tutti i tuoi destini. Portami lontano da questi falsi dei. Portami oltre il cielo, oltre dove tu vuoi. Oltre le frontiere, oltre le apparenze. E dove il pane è grano e il cielo brucia tutte le assenze. FB nudi tra due croci, antilopi e Agamennone in platea. Sparano le frecce e mangiano le noci, assistono al trionfo di Galatea. Fontane d'oro spruzzano del vino per tutti i marinai di ogni terra. Tra un poker di barboni, di fiumi di ogni mondo, preparati a morire perché siamo entrati in guerra. Elia ha risuscitato il figlio della vedova, mentre Esther sviene al cospetto di Assuero. Giuditta trionfante mostra gli israeliti la testa di Oloferne, la faccia dei banditi. Mosè, Bacco, Minerva, Apollo e Daphne si fanno in quattro per avere un posto tra Ovidio e lo scatenato Prometeo. Intanto in prima fila sghignazza il fariseo. Nave celeste in un mare di stelle, nave in un porto tra scogli e conchiglie. Nave di cuoio e di schegge lunari. Seguirò tutti i tuoi passi, tutti i tuoi destini. Portami lontano da questi falsi dei. Portami oltre il cielo, oltre dove tu vuoi. Oltre le frontiere, oltre le apparenze. Lì dove il pane è grano e il cielo brucia tutte le assenze. A prua c'è un monumento, una ghigliottina. A poppa c'è un cadavere che cammina. L'aguglia è una chitarra per chi la sa suonare. La tonda di una barca è il suo lato migliore. Pittori rigattieri masticano sigari. Ambulanti dissacranti danno i loro numeri. Fanciulli zingarelli ti tagliano la strada per leggere la mano di una giovane preda. Il ratto delle Sabine è Giove che l'ha fatto, mentre Andromeda e Perseo non hanno chiuso occhio. La morte di Didone è stato un incidente, provocata da un veleno di uno stupido serpente. Ma fatti di questo genere non si ripeteranno, perché abbiamo ritrovato Romolo e Remo sta arrivando. Per ognuno un salvagente che galleggia, promettiamo, su questa nave di nessuno che mi sembra quasi un treno. Nave celeste in un mare di stelle. Nave in un porto tra scogli e conchiglie. Nave di cuoio e di schegge lunari. Seguirò tutti i tuoi passi, tutti i tuoi destini. Portami lontano da questi falsi dei. Portami oltre il cielo, oltre dove tu vuoi. Oltre le frontiere, oltre le apparenze. Di dove il pane è grano e il cielo brucia tutte le assenze.